In un mondo in cui viene dato per scontato il diritto di privare della libertà e della vita milioni di individui per soddisfare un desiderio del palato, scopriamo che esiste la Settimana Mondiale per l'Abolizione della Carne, che si terrà dal 19 al 27 gennaio 2013. In oltre 100 città e un gran numero di paesi, dalle Bahamas alla Francia, dalla Germania a Israele, dalla Nuova Zelanda al Perù, Svizzera, al Sudafrica, alla Turchia, agli Stati Uniti ed altri, si svolgeranno azioni di sensibilizzazione, di rappresentazioni di strada, laboratori, seminari, workshop. Ne parliamo con Marco Reggio, che fa parte dell'associazione Oltre la Specie e della redazione del sito antispecismo.net. Ciao Marco. Ciao Camilla. Cos'è esattamente la Settimana Mondiale per l'Abolizione della Carne? Una serie di iniziative che possono essere di vario tipo, da iniziative così più informative o di dibattito a iniziative di protesta, quindi anche di piazza, concentrarle in un momento, in una settimana in cui ci sia una rivendicazione chiara contro gli allevamenti per la carne, latte e le uova, che sia un po' un momento di visibilità per questa rivendicazione a livello mondiale, perché l'idea è che comunque su un tema di questo tipo, un po' come la rivendicazione antischiavista, ecco, di un tempo, per fare un parallelo abbastanza pregnante, non si può portare nei confini, insomma, di un solo paese. In un certo senso potrei dire con un minimo di orgoglio che l'idea di fare 3 settimane invece di una è partita proprio dall'Italia, perché abbiamo avuto un momento di particolare interesse 2 anni fa. Ti faccio una domanda a un altro livello. A che punto siamo nell'immaginarci un mondo senza carne? Fa fatica ad affermarsi l'idea che veramente si possa non tanto eliminare dalla propria dieta la carne, ma che si possa eliminare il fenomeno istituzionalizzato che ci sta dietro. Questo passaggio, che è quello a cui noi teniamo molto, è il passaggio dal criticare il consumo individuale di carne al criticare il sistema che ci sta dietro, e quindi chiedere proprio espressamente l'abolizione degli allevamenti, dei macelli, della caccia, della pesca, eccetera, sia un passaggio fondamentale. Siamo ancora lontani, però c'è stato senz'altro un tempo in cui sembrava impossibile anche l'abolizione della schiavitù o il voto delle donne, no? Che in fondo è relativamente recente. La differenza tra una strategia e l'altra si vede nel linguaggio. Se neanche noi, che poi magari concretamente tutti i giorni appunto ci rifiutiamo di mangiare la carne, il latte, le uova, eccetera, ma se neanche noi siamo capaci, abbiamo, come dire, il coraggio, l'onestà, la sincerità di dire che quello che noi vogliamo effettivamente è chiudere, di fatto proibire, anche se vogliamo usare una parola molto forte, cioè abolire questa violenza istituzionalizzata, il nostro messaggio non verrà mai preso sul serio. Ecco, se noi non siamo neanche in grado di dire che vorremmo arrivare ad abolire questa pratica, perché non è una questione di scelta personale, anche se oggi si esprime così effettivamente. Cioè la vivisezione o anche altre CIE, mi vengono in mente, offrono degli obiettivi specifici, circoscritti, raggiungibili forse in tempi anche brevi o a medio termine, e in questo caso forse no, invece organizziamo presidi o flash mob che hanno il carattere più della denuncia, ecco, insomma, della visibilità della sofferenza animale. Magari ci risentiamo più avanti per delle segnalazioni su eventi relativi a questa settimana e ci potrai consigliare quali seguire più da vicino. Il link del sito internazionale che segnalerà tutti gli eventi che verranno organizzati, Marco aiutami se sbaglio, dovrebbe essere meat-abolition.org. Esattamente. Noi di Restiamo Animali non ci siamo ancora pronunciati sull'azione teppistica incendiaria compiuta a Montelupo ai danni di alcune autocisterne di latte e rivendicata come azione ALF, cioè Animal Liberation Front, in quanto riteniamo che il teppismo non possa essere animalista e non vogliamo sacrificare notizie costruttive per parlare di inutili teppismi. Noi critichiamo questo episodio non in quanto è legale. Anche la liberazione dei cani di Green Hill durante la manifestazione di aprile 2012 è stata compiuta in modo illegale e noi siamo stati certamente dalla parte dei liberatori. Pensiamo però che in questo caso a dare fuoco alle cisterne del latte in primo luogo non comunichi niente di costruttivo ai cittadini, i quali purtroppo, come sappiamo, pensano che il latte sia un alimento innocuo, anche se così non è, in quanto sono in gran parte disinformati e questa azione certamente non li informa. Non li mette di fronte a dilemmi etici alla portata di tutti, come invece fanno le azioni di liberazione di animali prigionieri, come accade appunto a Green Hill. Pensiamo inoltre che questo atto abbia procurato un danno aziendale, danno che al solito pagheranno le assicurazioni e principalmente i lavoratori, e fra questi i primi, i più importanti, sono gli animali. Aggiungiamo solo una doverosa informazione. L'Animal Liberation Front non è un'organizzazione strutturata. Chiunque può compiere azione di liberazione animale e usare la sigla ALF per rivendicarle. Ma incendiare cisterne del latte non libera nessuno, anzi getta il discredito verso un movimento animalista che sa e deve essere più intelligente e maturo di così.